Con la pubblicazione dell'app Immuni, l'applicazione per il contact tracing che dovrebbe aiutarci a combattere il Covid-19, e quindi con la seguente pubblicazione anche del sito immuni.italia.it, da cui si possono ricevere le informazioni e come scaricare l'applicazione, è esplosa una diatriba, una controversia. Sul sito, infatti, c'erano due immagini: una raffigurava una figura femminile con in braccio un bambino affacciato alla finestra, l'altra invece una figura maschile intenta a scrivere al computer e lavorare. Un classico stereotipo di genere rafforzato ulteriormente e sbattuto in faccia a milioni di cittadini. Questa mattina i designer del sito, con un magico colpo di tavoletta grafica, hanno semplicemente invertito le due figure, e quindi abbiamo la figura maschile con i bambini in braccio e la figura femminile che lavora al computer. In questa puntata del podcast non parlerò di questo, ma parlerò di un problema tangente e che si ricollega a questo episodio, ovvero come molto spesso il design, la ricerca di trovare soluzioni a problemi, non tiene in considerazione poi effettivamente i bisogni delle comunità che andranno poi ad utilizzare quello strumento prodotto. Il problema con il design emerge chiaramente in una serie di tweet pubblicati oggi dalla ricercatrice di machine learning, designer e artista Caroline Sinders. Nella sua serie di tweet lei sottolinea un problema che ritiene essere centrale, ovvero il modo in cui è stato insegnato il processo del design fa sì che non ci sia modo di produrre progetti, oggetti, strumenti e tecnologie che mirino a ridurre i danni e le molestie, quindi non c'è una sorta di harm reduction introdotta nel processo di design. Questo perché lei lo ricollega a tutta una generazione di persone bianche, scuole di design, standard di software design che sono diventati un modello da seguire. Quindi vediamo ad esempio design delle piattaforme come Facebook e Twitter che vengono assunte a norma e copiate ovunque. Con il design ci troviamo davanti a un mondo ampissimo, e come sottolinea un articolo apparso su N+1 dello scorso anno della designer Maggie Graham, le descrive il design come una sorta di parola talismano che ormai ha assunto significati infiniti. Con il design siamo convinti di poter risolvere il mondo. In realtà l'obiettivo del design è quello di produrre oggetti che risolvono problemi. La questione qual è? È che dobbiamo capire per chi quei problemi che vengono risolti sono effettivamente dei problemi e come si pensa di risolvere quei problemi. Quando parliamo di design dobbiamo necessariamente parlare anche di affordances, ovvero le attività, le capacità, i modi di interagire che sono propri delle interfacce, degli strumenti, degli oggetti che produciamo. E quindi possiamo immaginare ad esempio le block list su Twitter, che sono degli strumenti pensati per proteggersi da fenomeni di harassment, quindi di molestie digitali, ma che in realtà sono difficili da utilizzare, da impiegare. Oppure pensiamo alla scelta a volte di diverse piattaforme di rendere complessa la possibilità di fare segnalazione dei contenuti o di richiedere un appello, una revisione dei contenuti che sono stati rimossi. Tutto questo tipo di affordances e scelte effettuate dai designer delle applicazioni chiaramente si riflettono sugli utenti che utilizzano questi strumenti. In questo modo quindi ci possiamo trovare di fronte a situazioni in cui degli strumenti progettati in un determinato modo hanno come affordances, quindi come modo di utilizzo, quello dell'harassment. Come si potrebbero prevenire queste situazioni? Caroline sottolinea come ci sia la concezione del designer come esperto, quindi rimuovendo l'idea che esistono effettivamente degli esperti del dominio di cui ci si occupa. E quindi i designer tendenzialmente, quando devono risolvere un problema, pensano che intervistando semplicemente le persone coinvolte in quel determinato problema possano in qualche modo apprendere la conoscenza necessaria per risolverlo. E quindi anziché introdurre comunità, gruppi di lavoro, NGO, gruppi di cittadini che sono esperti, veramente esperti su quel tema, perché lo vivono sulla propria pelle, quindi possiamo pensare a minoranze etniche, possiamo pensare a minoranze di genere, anziché includerli, semplicemente li considerano come un soggetto da intervistare per poi proseguire con il classico progetto di design. In realtà, secondo Caroline, bisognerebbe che i designer iniziassero a fare un passo indietro e coinvolgere molto più attivamente gli esperti dei singoli domini, e quindi non solamente intervistarli, ma coinvolgerli attivamente, farli sedere al tavolo, portare i propri bisogni, idee e necessità. Queste sono situazioni che viviamo quotidianamente nel mondo digitale. Pensiamo per esempio alla mancanza di diversità, sia per quanto riguarda la provenienza degli sviluppatori delle piattaforme che utilizziamo, sia per quanto riguarda anche le questioni di genere. E quindi ci troviamo chiaramente di fronte a degli strumenti che hanno come vero e proprio modo di utilizzo quello di facilitare le oppressioni per determinate minoranze e soggetti pubblici. Un altro tipo di approccio al design che è chiaramente catastrofico è quello che straborda dal mondo digitale al mondo reale, e quindi uno degli emblemi di questo tipo di approccio è quello portato avanti da Sidewalk Labs, appendice di Alphabet, l'azienda che gestisce fra le varie altre cose anche Google, che decide di portare questa visione della Smart City in tutto il mondo. Uno dei progetti principali era quello di Toronto, in cui hanno letteralmente preso una zona della città e l'hanno voluta trasformare in un esperimento, trasformare quella zona in una vera e propria smart city. Chiaramente i cittadini si sono opposti con proteste, azioni, campagne online e offline, e alla fine, complice anche il periodo della quarantena e quindi dell'esplosione della pandemia del Covid-19, ma chiaramente complice ma non come unica motivazione, il progetto è sfumato, è tornato indietro, hanno deciso di rinunciare a quella parte di città di Toronto e bloccare lì il progetto. Questo non vuol dire che Sidelabs sia naufragato, tutt'altro, continuano con altri tentativi negli Stati Uniti, ma torniamo di nuovo a un chiaro esempio di design che non va effettivamente incontro all'utente che deve utilizzarlo, non lo ascolta, ma parte da dei presupposti, da dei privilegi che sono presenti in chi si trova dietro al design e ne fa uno strumento di oppressione per chi dovrà fruire di quegli strumenti. E come ricorda Caroline, i designer dovrebbero ripensare il modo in cui contribuiscono. Loro non sono gli esperti nel tema, ma sono quelli che hanno il compito di costruirlo.